potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Allora, c'è un fatto davvero affascinante sulla biologia canina che ribalta praticamente molte delle convinzioni più comuni che abbiamo. Il battito cardiaco di un cane, pensa, può letteralmente sincronizzarsi con quello dell'essere umano che ha di fronte. Sì, è una cosa incredibile. Esatto, cioè non servono comandi vocali, non serve un addestramento specifico. Si tratta di una pura e invisibile trasmissione chimica ed elettromagnetica. Assolutamente. E benvenuti a The Deep Dive. In questa esplorazione approfondita di oggi abbiamo sul tavolo una serie di documenti, insomma appunti e script che scardinano proprio l'intero impianto dell'addestramento cinofilo tradizionale. Che poi è l'approccio con cui siamo cresciuti tutti fondamentalmente. Infatti, e questi testi presentano il lavoro di Michele Amico, che è un formatore cinofilo nazionale, e la sua filosofia è definita biopensiero. Esatto. L'obiettivo della nostra analisi odierna è decostruire un po' l'idea che la connessione con un animale passi attraverso, non so, fischietti, premietti in cibo o peggio ancora tecniche di sottomissione. Certo. I testi che abbiamo letto suggeriscono che tutto passi esclusivamente attraverso la biologia e l'equilibrio interiore. E approcciando questo materiale, credo sia necessario chiarire subito che il biopensiero non si propone come un semplice manuale di istruzioni alternativo. Ok. I testi lo descrivono proprio come una lente di ingrandimento sulla natura. È, diciamo, un framework che costringe a inquadrare l'interazione non più come un rapporto tra un istruttore e un soggetto da plasmare, ma come un vero ecosistema in cui due organismi comunicano costantemente a livello cellulare e neurologico. Ok, analizziamo la cosa, perché il punto di partenza del documento smantella completamente questa immagine classica dell'addestramento. Totalmente. Perché per decenni l'immaginario collettivo ha trattato i cani come dei piccoli soldati da istruire. I famosi soldatini, sì. Esatto, l'approccio prevedeva sempre questa voce ferma, una postura rigida e l'inserimento di comandi secchi tipo seduto, terra, resta. Tutto affinché il cane si adattasse alla nostra società in sostanza. Proprio così. Il biopensiero invece avanza una tesi che capovolge la prospettiva, cioè il cane viene definito come un puro specchio della nostra biologia. Che è un'affermazione forte. Molto forte. In altre parole, se l'umano è fuori asse, il cane non può fisicamente, non può essere in equilibrio, a prescindere da quanta tecnica tu ci metta. Certo, perché il modello comportamentista classico, quello dei piccoli soldati per intenderci, si basa su un principio lineare di stimolo e risposta. E ignora del tutto lo stato interno dell'animale, per concentrarsi solo sull'estetica dell'obbedienza. Cioè, se il cane fa quello che dici, il metodo funziona. Sembra logico, in effetti. Sembra logico, ma le fonti che stiamo esaminando introducono un livello di analisi neurobiologica diverso. Sostengono che ogni comportamento visibile, anche quello più fastidioso o irrazionale, non è una scelta deliberata del cane. Ok. Ma è l'espressione diretta di un preciso stato fisiologico. E questo, insomma, manda completamente in cortocircuito la logica stessa del comando. Esattamente. Cioè, c'è un passaggio nei testi che illustra perfettamente questa dinamica. Si fa notare l'assurdità di chiedere a un cane di restare calmo quando la sua chimica interna e il suo sistema nervoso sono in allerta rossa. Per visualizzare il concetto, è come se si cercasse di installare un nuovo software, che so, un'app per la meditazione, su un computer che sta subendo un grave guasto hardware. Un'ottima analogia. Cioè, la ventola è rotta, il processore è surriscaldato, la scheda madre sta fondendo. E noi siamo lì a cliccare installa, installa all'infinito. Sì, ma l'hardware non possiede proprio le risorse fisiche in quel momento per processare il comando. Esatto. E questa analogia tecnologica illustra benissimo il blocco del sistema. Perché a livello fisiologico, quando un cane percepisce una minaccia reale o solo un'instabilità ambientale, il sistema nervoso autonomo attiva quella che chiamiamo la risposta di attacco o fuga. Ok. In quella specifica frazione di secondo, l'amigdala, che è la parte che gestisce la sopravvivenza e le emozioni primarie, prende il controllo totale. Quindi spegne tutto il resto. Letteralmente. Di conseguenza la corteccia prefrontale, cioè l'area del cervello responsabile dell'apprendimento, dell'ascolto e dell'elaborazione, viene disattivata. Wow! Perché? Perché consuma troppa energia in un momento di emergenza. Quindi il cane non sta scegliendo di disobbedire per testardaggine. Non ti sta facendo un dispetto. Esatto, non è un dispetto. È in una condizione biologica che gli impedisce fisicamente di processare le frequenze della voce umana che gli dà un ordine. Ma se la biologia funziona con queste regole così ferree, a me sorge una domanda inevitabile a questo punto. Dimmi. Per quasi un secolo l'approccio coercitivo, o comunque quello molto meccanico, è stato lo standard globale nell'addestramento. Verissimo. Ma se è un fallimento dal punto di vista dell'hardware biologico, come ha fatto a sembrare funzionante per tutto questo tempo? Cioè, perché ci stiamo accorgendo solo ora di questo limite così enorme? Questa è una domanda cruciale. E la spiegazione che danno i testi risiede nella differenza fondamentale tra risoluzione e inibizione. Ok, spiegati meglio. L'addestramento tradizionale ha prosperato perché l'inibizione produce risultati visivamente molto rapidi. Ah, ho capito. Un cane sottomesso, o un cane che agisce per timore di una correzione, all'esterno può apparire perfettamente obbediente. È immobile, non abbaia, non tira il guinzaglio. E l'occhio umano, che guarda solo al risultato immediato, lo registra come un successo. Esattamente. Problema risolto, si pensa. Tuttavia, la neurobiologia moderna rivela che sotto quella superficie così immobile, i livelli di cortisolo dell'animale sono alle stelle. Caspita. È una condizione nota in psicologia come impotenza appresa. Il cane non ha affatto disattivato l'allerta rossa, l'ha semplicemente interiorizzata. Perché ha capito che reagire porta conseguenze peggiori, tipo una punizione. Proprio così. E il biopensiero evidenzia come questo approccio non educhi affatto, ma crei una sorta di compressione emotiva. Una pentola a pressione. Che spesso poi si traduce in futuri problemi comportamentali o addirittura problemi di salute fisica per l'animale. Quindi se l'hardware va in crash, e l'inibizione chiaramente non è la soluzione, la vera indagine deve spostarsi sull'origine di quel crash. Esatto. Cioè, da dove proviene realmente questa allerta rossa? E i documenti di Michele Amico indicano che, nella stragrande maggioranza dei casi, la causa scatenante non risiede nel cane stesso. No, per niente. Risiede nell'ambiente circostante. E indovina un po', l'elemento che altera maggiormente quell'ambiente è proprio l'essere umano. E il fulcro scientifico di questa teoria è quello che le fonti chiamano il concetto di antenna biologica. Che è un concetto affascinante. La cosa affascinante qui è proprio come umani e cani, pur avendo percorsi evolutivi differenti, alla fine condividano i mattoni fondamentali della biologia dei mammiferi. E il linguaggio chimico, in questo senso, funziona da traduttore universale tra le due specie. Infatti i testi pongono una grande grande enfasi sul cortisolo, no? L'ormone dello stress. Sì. Se una persona sta attraversando un momento di tensione, se è fuori asse, il suo sistema endocrino emette cortisolo nel flusso sanguigno. Inevitabilmente. E il cane non solo si trova lì, nel medesimo raggio d'azione, ma possiede questa antenna biologica che legge il dato chimico in tempo reale. E il modo in cui il cane acquisisce questo dato non è magia, è puramente meccanico. Giusto. Noi esseri umani ci affidiamo soprattutto alle parole e alle espressioni facciali per capire le intenzioni degli altri. Giusto. Sì, alla semantica. I cani invece sono dotati di un apparato olfattivo spaventoso, che ospita fino a 300 milioni di recettori. Loro non si limitano a intuire lo stress. Loro lo annusano letteralmente. Annusano i sottoprodotti chimici dell'adrenalina secreti dalle nostre ghiandole. Ma non solo. Registrano le micro variazioni nella nostra frequenza cardiaca. Cose che noi neanche percepiamo in noi stessi. Esatto. Percepiscono la tensione muscolare asimmetrica, notano i minimi cambiamenti nel nostro modo di respirare. Per un cane, insomma, l'umano non è solo il compagno di vita, è un vero e proprio trasmettitore ambientale. Un trasmettitore ambientale. Ed è qui che si fa davvero interessante. C'è una provocazione che voglio fare, basata su un passaggio dei materiali che mi ha colpito tantissimo. Vai. Lì si afferma che il cane non è in grado di leggere la nostra maschera sociale. E questo sembra il nocciolo del problema. Perché la nostra società si fonda sulle maschere sociali. Fingiamo calma durante una riunione disastrosa, sorridiamo nel traffico per non litigare, dissimuliamo la rabbia di continuo. È un meccanismo di sopravvivenza sociale. Esatto, ma ragionando su questa fisiologia condivisa. Supponiamo che io torni a casa dopo una giornata pessima, proprio satura di stress. Ok. So che devo interagire col cane, quindi decido di indossare la mia migliore maschera. Fingo una postura rilassata, mi stampo un sorriso in faccia, uso un tono di voce acutissimo e rassicurante e gli do il croccantino. Classico. Ecco, la mia domanda è: se la mia voce dice bravo cucciolo, ma il mio sudore trasuda cortisolo, sto fornendo dati totalmente contrastanti. Assolutamente sì. Non rischio di apparire ai suoi occhi come una figura totalmente inaffidabile? O magari una minaccia imprevedibile? Il cane sa perfettamente che sto fingendo. Sì, lo sa. E l'incongruenza viene percepita esattamente come un segnale di estremo pericolo. Addirittura estremo pericolo? Pensaci. In natura, un predatore o anche un membro del branco che nasconde il suo stato interno, che agisce in modo dissociato da quello che sente davvero, è un'anomalia allarmante. Ah, certo, perché è imprevedibile. Esatto. La discrepanza tra il canale visivo uditivo, cioè il tuo sorriso e la tua vocina dolce, e il canale chimico olfattivo, che invece urla attenzione, manda in totale confusione il sistema nervoso dell'animale. Quindi la mia recita per calmarlo in realtà peggiora la situazione? Molto. Invece di calmarlo col tono pacato, l'umano sta involontariamente confermando che c'è un'emergenza in corso. Un'emergenza talmente grave che devo pure fingere. Esattamente. Il cane si fiderà sempre del dato chimico, perché nel mondo naturale l'evoluzione ha premiato chi ascolta la chimica per sopravvivere. Chiaro. La maschera sociale umana è un costrutto intellettuale recentissimo. Quando la nostra biologia segnala un allarme, l'antenna del cane si sintonizza su quello e invalida all'istante qualsiasi bocconcino o carezza tu gli stia offrendo. Guarda, è una prospettiva che smantella l'ego in un secondo. Totalmente. Cioè, passiamo la vita ad affinare la capacità di nascondere le nostre fragilità, ma di fronte a un animale siamo biologicamente trasparenti. E non c'è via di scampo da questo. A questo punto però l'indagine si sposta sulla risoluzione pratica. Perché se non è possibile ingannare l'antenna biologica con finte espressioni di calma, come gestiamo un problema comportamentale esplosivo? Bella domanda. Ad esempio, non so, un cane che tira ossessivamente al guinzaglio fino a strozzarsi, o che abbaia ogni minimo stimolo esterno. Se dire smettila non funziona a livello neurologico, e fingere di essere rilassati non si può fare, quale strada ci rimane? Rimane quello che il biopensiero definisce un cambio di paradigma radicale. Il passaggio dal trattare il sintomo a risolvere la causa sistemica. Ok. Accettare che l'animale faccia da specchio comporta una riallocazione totale della responsabilità. Il focus dell'intervento non è più l'animale che abbaia, perché l'abbaio è solo la spia luminosa che ti dice che c'è un guasto nel sistema. Quindi, cosa significa tutto questo nella pratica? Per visualizzare questo salto sistemico, si potrebbe pensare all'interazione tra umano e cane come a una rete Wi-Fi domestica. Vi piace? L'essere umano è il router principale. Il cane è uno smart device collegato. Mettiamo una televisione. Ok. Se la televisione inizia a trasmettere immagini distorte o perde la connessione, l'approccio tradizionale cosa farebbe? Andresti a dare due colpi sul lato della TV. Esatto. Colpisci la TV o premi compulsivamente i tasti del telecomando per correggere quel difetto visibile. Che è inutile. Il biopensiero, infatti, interviene dicendo che è totalmente inutile accanirsi sul televisore se il router sta trasmettendo un segnale corrotto. Mm-hmm. Finché non vai a resettare il router e stabilizzi la frequenza alla fonte, lo smart device, il cane, continuerà a manifestare il problema. La metafora del segnale descrive alla perfezione questo approccio delineato da Amico. Se colleghiamo questo al quadro generale, l'azione risolutiva si sposta dal cosa fare all'animale al chi essere davanti all'animale. Chi essere? Significa abbandonare, insomma, quell'interazione meccanica da addestratore per entrare in un vero stato di presenza consapevole. Sì, ma come si realizza tecnicamente questo stato di presenza? Perché i testi ci tengono a precisare che non parlano di magia, parlano di procedure fisiche, vere e proprie. molto fisiche. Si fa riferimento costante alla gestione del respiro e della postura. Intervenire sul proprio diaframma non è una pratica esoterica, è pura biomeccanica. Certo. Rallentando e approfondendo la respirazione, le fonti dicono che si stimola il nervo vago. E la stimolazione del nervo vago è letteralmente il ponte tra la nostra volontà e la fisiologia autonoma. Quando l'umano attiva intenzionalmente una respirazione diaframmatica profonda, cosa succede? Informa il proprio cervello che non c'è nessuna emergenza in corso. Gli dice che va tutto bene. E questo innesca il sistema nervoso parasimpatico. La frequenza cardiaca decelera, la pressione si abbassa e, cosa fondamentale, la produzione di cortisolo si ferma di colpo. Lasciando spazio a neurotrasmettitori legati alla calma. Esatto. E in quel preciso istante, la trasmissione chimica ed elettromagnetica che l'umano irradia nell'ambiente, il segnale Wi-Fi cambia radicalmente. Viene inviato un nuovo pacchetto di dati. Il router smette di trasmettere interferenze e inizia a trasmettere un segnale pulito. Di riflesso, il sistema nervoso del cane recepisce subito la nuova informazione. L'antenna capta che non c'è più pericolo. Ah, ecco. Quindi non ha più bisogno di mantenere attivata la risposta di difesa o lo stato d'ansia. L'abbaiare o la reattività al guinzaglio si attenuano fisiologicamente. Non perché lo hai inibito con la forza. No, ma perché la causa sistemica che alimentava quel comportamento è stata disinnescata alla radice. I documenti di Michele Amico, tuttavia, aggiungono una sfumatura a questo punto che mi sembra unire due mondi apparentemente molto distanti. Cioè? Si descrive questo percorso come la necessità di tornare a sentirsi parte della natura, non padroni della natura. Bellissimo. E si sottolinea che l'intero processo deve essere guidato, cito testualmente, da rigore tecnico ma con un cuore antico. Questa è una frase chiave. Questa formulazione merita di essere decodificata un attimo. Da una parte c'è la biologia, no? Lo studio dei recettori olfattivi, il sistema nervoso. Dall'altra c'è l'evocazione di qualcosa di atavico. Sì. Come si fondono questi due aspetti nella pratica di tutti i giorni? Guarda, la loro fusione rappresenta proprio l'apice di questa filosofia. Il rigore tecnico è assolutamente indispensabile per evitare di umanizzare l'animale. Per non cadere nei romanticismi inutili. Esatto. Serve a comprendere i meccanismi neurobiologici esatti che guidano il cane. Ma d'altra parte, la tecnica pura, se privata della connessione empatica, rischia di diventare solo una nuova forma di freddo meccanicismo. Vero. E il cuore antico cos'è? Il cuore antico è il recupero della consapevolezza della nostra natura animale. Negli ultimi secoli il nostro sviluppo supercognitivo ci ha un po' allontanati dalla percezione corporea. Siamo sempre nella nostra testa. Ritrovare il cuore antico significa riattivare quel vocabolario non verbale, fatto di, sai, baricentro, di intenzioni silenziose, di respiri condivisi, le cose che i nostri antenati usavano per muoversi nel mondo naturale. In questo modo non ti poni più come dominatore di un essere cognitivamente inferiore, ma ti riconosci come parte di un unico grande ecosistema. Sottoposto alle stesse leggi biologiche. È un'impresa complessa, però, perché impone proprio l'abbandono delle difese intellettuali che abbiamo costruito in una vita intera. È un lavoro enorme su se stessi. Richiede la disponibilità a osservarsi con estrema lucidità, utilizzando l'animale come un metro di giudizio imparziale. Cioè, quando ti trovi di fronte a un cane costantemente agitato, il framework del biopensiero ti impone una domanda scomodissima. Quale? Quanto rumore di fondo, quanto caos silenzioso sto iniettando inconsapevolmente in questo spazio condiviso? E il motivo per cui i testi definiscono tutto questo come una rivoluzione è proprio perché trascende i confini della cinofilia. Assolutamente. Lavorare sulla stabilizzazione di un cane diventa inevitabilmente l'innesco per una rieducazione umana. L'addestramento diventa un pretesto per fare un'analisi profonda di come abitiamo il nostro spazio emotivo e fisico. Le fonti, infatti, e qui mi avvio verso la chiusura del discorso, conducono l'analisi verso una conclusione che va ben oltre i confini di un campo di addestramento. Certo. I principi esposti si estendono all'esistenza quotidiana di chiunque. Comprendere che per stabilire un canale di comunicazione pulito con un'altra specie bisogna prima di tutto riallineare il proprio baricentro interiore, beh, è una riflessione sulla crescita individuale pazzesca. Direi immensa. Il concetto centrale del lavoro di Amico ci mette di fronte a una realtà incontrovertibile. Che chi ci ascolta abbia un animale o meno, lo stato biologico interno di un individuo emette costantemente informazioni verso l'esterno. Ininterrottamente. Un flusso di dati che opera in modo del tutto indipendente dalla nostra volontà cosciente o dall'immagine che tentiamo di proiettare. E l'antenna recettiva del cane rappresenta semplicemente lo strumento di misurazione più sofisticato e privo di filtri che abbiamo per rilevare questo fenomeno. L'animale risponde al flusso in tempo reale, rendendo visibile quello che è invisibile. Ma attenzione, la trasmissione chimica e l'impronta elettromagnetica di un umano non si spengono magicamente quando il cane esce dalla stanza. E questo sposta la questione sul piano della responsabilità ambientale in senso ampio. Cioè l'individuo diventa responsabile dello spazio chimico che genera e che immette nell'ambiente in ogni singolo momento della giornata. Ed è su questa ramificazione, secondo me, che emerge lo spunto di riflessione più complesso dell'intera analisi. Vai. Se la fisiologia canina fa da specchio spietato al nostro rumore interno, rivelando la verità biologica sotto tutte le nostre interazioni di facciata, ci si deve chiedere cosa sta raccontando questa ininterrotta trasmissione biologica incontrollata agli altri esseri umani? Caspita! Senza esserne minimamente consapevoli, quale livello di allerta, di ansia o di instabilità stiamo quotidianamente trasmettendo al di là delle parole che diciamo ai colleghi di lavoro, dentro le nostre famiglie o in qualsiasi interazione sociale? Questa è una di quelle domande che merita davvero di risuonare a lungo. L'idea che il nostro respiro alterato possa inquinare l'ambiente circostante, così come, viceversa, un respiro calmo possa regolarlo. Certo. Offre una prospettiva totalmente inedita sulle frizioni relazionali che viviamo tutti i giorni. Completamente. Forse quando affrontiamo una dinamica tesa o troviamo un muro di incomprensione con qualcuno, la primissima mossa non dovrebbe essere alzare la voce o cercare nuovi argomenti, ma semplicemente fermarsi, ascoltare il proprio diaframma e resettare il proprio segnale biologico. Resettare il router. Resettare il router. E chiudiamo qui questa nostra esplorazione approfondita. L'auspicio è che l'analisi del biopensiero possa fornire a chi ci ascolta una nuova chiave di lettura per decodificare il mondo naturale, sia quello che abbiamo intorno, sia quello che ci portiamo dentro. Esatto. Rimane fondamentale continuare a investigare, farsi domande e soprattutto prestare molta più attenzione ai segnali silenziosi della nostra biologia. Alla prossima! Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Scuolaformazionecinofila.it.